Signor Presidente, sei mesi or sono, sono stato informato di una situazione così devastante che all'inizio mi sono rifiutato di credere. Tuttavia, dopo le ricerche congiunte dei nostri più brillanti scienziati, ci è stata confermata la sua veridicità. Il mondo, così come lo conosciamo, presto scomparirà. Ho perso le ali quando caddi sulla terra, ed è allora che giorno dopo giorno combatto questa guerra. Sono Nostradamus, ora mi conosce come queste eclissi, è solo l'ombra del mio nome. Se mi vedi incontro luce, il sole alle mie spalle, chi aspetta l'asteroide, chi confeziona le storielle, ricorda le parole della N e la doppia S. Siamo ben oltre l'ora dell'apocalisse, i cani nel cielo sono stati già sguinzagliati, udirai nitriti e vedrai cavalli alati prima della fine del mondo, the doomsday, gente che si affretta ad acquistare bunker sui bay, chi compra un'arca anche di seconda mano, chi seleziona bestie, chi il genere umano, ma lassù per noi non vanno il tifo, nemmeno la fine del mondo metterebbe fine a tutto questo schifo. È la profezia di Nostradamus, se per molti passa, alcuni hanno finito il bonus. È la fine del mondo, come un déjà vu, cenere alla cenere, placet Christus, Dominus. Anche se non lo sa, ogni goccia di pioggia contiene promesse di rinascita, ma tsunami, terremoti ed alluvioni sono i sicari della natura contro le nazioni, ed è madre natura che questa volta si ribella verso chi non dà rispetto alla sua terra. Profezie scontate, profezie smontate, non serviranno mai, non siamo porte aperte anzi sfondate, mani giunte, preghiere e scongiuri vani, occhi al cielo aspettando la fine degli esseri umani. Chi segue falsi profeti è condannato, la fede ma riposta di forte dopo averti osannato, vivendo in questa vita a tempo determinato, camminiamo, occhi bendati, in un campo minato. Io batto il cingo agli angeli che mi hanno accompagnato su questo tragitto, nel sentiero infangato. È la profezia di Nostradamus, se per molti passa, alcuni hanno finito il bonus. È la fine del mondo, come un déjà vu, cenere alla cenere, placet Christus, Dominus. All'orizzonte sta spuntando il sole, c'è chi si spinge al limite, alla ricerca di calore. L'arcobaleno che si alza sulla testa, è solo uno spettacolo, è la natura dopo la tempesta. Ciami di locuste grandi e siccità, niente di tutto questo sulla mia città. È passata la paura e non ci sembra vero, indegna la sentenza, chi ci credeva per davvero. Un'altra profezia, un altro buco nero, è finita a tara luce e vino, tira un sospiro di sollievo. Il buio che mi spaventava è la mia sicurezza, sforziamoci di aprire gli occhi per fare chiarezza. La grande paura è passata, cosa ci aspetta? Robot plurimandatari a caccia di vendetta, ricominciamo a vivere, ma un altro giorno passa, uno in meno sulla linea della vita che batte cassa. Vivilo come se fosse l'ultimo, dai sempre il massimo, occhi bene aperti, cogli l'attimo, è già tutto scritto, segui il tuo destino, ma occhio al prezzo, qui ci aggiornano il listino. È la profezia di Nostradamus, se per molti passa, alcuni hanno finito il bonus. È la fine del mondo, come un déjà vu, cenere alla cenere, placet Christus, Dominus. All'orizzonte sta spuntando il sole, c'è chi si spinge al limite, alla ricerca di calore. L'arcobaleno che si alza sulla testa, è solo uno spettacolo, è la natura dopo la tempesta. Cosa così devono tenerla nascosta. Prova un po' a pensare, ok? Primo, la borsa crollerebbe. Poi, l'economia, boom! Il dollaro, boom! E poi il finimondo per le strade. Guerra, genocidio, boom, boom, boom!